La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16.30 primi e 46 secondi in diretta, come sempre agli studi di Milano. Oggi non piove, ma vediamo, insomma, comunque clima che piace meno alle signore che lavorano qua, ma insomma finalmente fa un po' freddo, che ci mancherebbe altro. Mi guardano dalla regia come se fosse un insulso, ma grazie come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast. L'indirizzo, la versione di Oscar, chiocciolaradio24.it. Grazie al neurochirurgo che mi ha scritto pochi minuti fa e del cui libro parleremo presto, quindi continuate a scrivere per qualunque cosa, critiche, osservazioni, domande e proposte di trasmissione. Di che cosa parliamo oggi? Se volete intervenire, 800 24 00 24. Parliamo di una cosa che effettivamente nella agenda politica convulsa di questo paese, dopo le primarie del PD, all'Italia, delle nomine dei commissari, cosa avverrà la compagnia, il dibattito sullo sfondo, che ne so, Grillo, i vaccini, New York Times e così via. Sono stati i giorni quelli in cui alla fine è uscito il decreto della manovrina, in cui l'attenzione politica era, diciamo, presa da altro rispetto all'esame concreto di che cosa c'è nel decreto di correzione. Lo ricordiamo, è un decreto di correzione del deficit previsto nella legge di bilancio quest'anno dal governo Renzi. L'Europa ha chiesto la correzione, e questa correzione alla fine è diventata anche una maniera, per accontentando Renzi così, per anticipare effetti che diminuiscono la clausola automatica di garanzia fiscale prevista nella legge di bilancio 2018 di oltre 19 miliardi appostata da Renzi, ma prima della quale Renzi vuole andare a votare. E l'effetto poi del decreto che ha iniziato il suo esame parlamentare è quello di diminuire di un 5 miliardi quei 19 miliardi rotti, quindi in qualche misura facciamo un passo avanti verso quello che altrimenti è un ostacolo. Meglio fare la campagna elettorale prima che poi spiegare come si fa a aggredire quella garanzia che era concepita per la sicurezza che l'Italia progredisse nella diminuzione del deficit. Sapete che su questo Renzi ha un'opinione diversa, che il patto è stupido, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, di che cosa parliamo? Del fatto che, come è in corso, è iniziato l'esame parlamentare, ieri c'è stata un'audizione, come ritualmente avviene sui decreti delle parti sociali, tutti i diversi stakeholder sociali, e c'è stata anche l'audizione di Confindustria. Confindustria, che nel dibattito pubblico è stata spesso ditata di essere una diciamo reggicoda del governo Renzi. Tutti ricordano, dopo la sconfitta nel referendum, molti articoli critici dicendo ma Confindustria aveva sposato integralmente la causa e così via. Ma insomma, in buona sostanza, al di là delle polemiche politiche, perché non parliamo di quello, ieri il direttore generale di Confindustria nella audizione in Parlamento sulla manovrina ha puntato un dito energicamente critico, e sfidando un luogo comune che in questi anni, diciamo, la politica che sostiene il governo ha sempre mirato a ribadire, cioè le tasse stanno scendendo eccetera eccetera, ha detto no, veramente il dato di fatto, audizione con fiducia in Parlamento, è che con la manovra per le imprese inizia chiaramente un aumento molto significativo della pressione fiscale. Allora, su questo aspetto, diciamo, l'attenzione dei media, il dibattito generale, non era andato. E allora questa puntata serve a capire due cose. Primo, è vero o è Confindustria che, come le parti sociali spesso fanno, recita la parte per lamentarsi, ma in realtà chiedendo altro non è vero? È un dato di fatto oggettivo che nella manovra c'è un aggravio significativo della pretesa fiscale dello Stato nei confronti delle imprese? Prima domanda. Secondo, che cosa vuol dire anche questo? Perché, a dire il vero, e questo bisogna, facendo il nostro mestiere, bisogna riconoscerlo, negli anni del governo Renzi in realtà per le imprese non era andata male, nel senso che i governi precedenti, i governi politici, poi i governi tecnici, insomma, avevano abituato le imprese a una ben diversa lesina. Io mi limito a mettere qui semplicemente alcune cose per ricordarvi. In buona sostanza, la massiccia decontribuzione a favore dei contratti a tempo a tutele crescenti nel 2015, pressoché integrale, fino a 8.000 euro a contratto, spalmata per 3 anni. Poi nel 2016 il primo decalage, spalmata in 2 anni e ridotta al 40%, ma insomma sono stati sommati e spalmati negli anni fino al 2019 però sono oltre 19 miliardi di decontribuzione alle imprese, che insomma, certo per l'occupazione, ma insomma sono andati alle imprese. L'abbattimento della componente lavoro dell'IRAP, beh, per le imprese è stata una cosa significativa e positiva. La discesa dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% quest'anno, quindi con la legge di bilancio per il 2017, sempre governo Renzi, è stata una cosa significativa. Gli incentivi fiscali, cioè la detassazione del welfare aziendale contrattato con i sindacati, equiparato praticamente per lo stesso trattamento al salario di merito, è stata un'altra cosa utile per il paese, ma utile per le imprese incentivate, è utile anche per i lavoratori e i sindacati che si trovano a estendere quindi il nostro modello di impresa media, ma soprattutto piccola e piccolissima, anche questa nuova possibilità incentivata. Sono state rifinanziate leggi importanti, la legge Sabatini che serviva per gli investimenti strumentali delle imprese, e quest'anno grazie al ministro Calenda, ma stiamo sempre parlando del governo Renzi, al regime di superammortamento dell'anno scorso si è aggiunto l'iperammortamento per gli investimenti nelle nuove aree identificate come quelle trainanti per il modello di industria 4.0. In parole povere stiamo parlando di una cifra significativa, insomma un punto e mezzo di PIL negli anni del governo Renzi, fuori dalle imprese. È vero che i bonus sono stati di 50 miliardi, ma in buona sostanza il dato di fatto è che per puntare a crescita aggiuntiva il governo aveva messo in atto delle significative poste e su questo credo che sia un fatto oggettivo. Siamo in presenza adesso di una svolta? Cioè la domanda mia, e qui finisco però poi passo a presentarvi gli ospiti, c'è una correzione significativa post referendum, post sconfitta referendaria, e adesso che ha vinto le primarie torna segretario del PD, quindi per potenziare tra virgolette gli interventi di politica economica sul versante sociale, visto che i dissenzienti del PD, che è uscito dal PD, ha in definitiva accusato Renzi di avere concentrato molto sulle imprese e i bonus per il reddito delle persone a chi aveva un reddito, ma di non aver fatto praticamente quasi nulla per la povertà assoluta e per i fiscalmente incapienti, cioè sotto gli 8.000 euro, anche questo è un dato di fatto. Qualche elemento fa sospettare di sì, cioè il paio di miliardi ritrovato per l'aumento per passare dalla SIA al reddito di inclusione, per chi ha meno, sia pur ancora solo un abbozzo rispetto ai 16 miliardi che servirebbero per il reddito di cittadinanza voluto dalle 5 Stelle, è un chiaro segnale in questo senso. Le rese incondizionate che vengono al ministro Fedeli e alla pubblica istruzione rispetto alla buona scuola, quindi il diritto subito concesso di riscegliere la cattedra vicino a casa senza dover assecondare l'assegnazione di dove si era vinta la cattedra e dell'assegnazione di cattedra dove serviva, da una parte l'abrogazione del salario di merito per i dirigenti scolastici, c'è tutta una serie di segnali, sembrano indicare che c'è una retromarcia rispetto alle scelte precedenti del governo Renzi. Ma allora cerchiamo di capire. Innanzitutto, c'è questo giro di vite nel decreto? Su cosa si articola? Su quanto si può calcolare? Quanto è grave? E anche sullo sfondo, è una svolta politica e quindi per le imprese è finito un ciclo e da Renzi a questo punto possono aspettarsi meno, perché le scelte devono andare in maniera più coerente all'identità di sinistra del PD e recuperare voti persi, come si è visto nel referendum, in quella direzione. Due ospiti abbiamo, primo una delle più straordinarie, mio giudizio, penne del Sole 24 Ore nell'analizzare come è cambiata e come continua a cambiare tutti i giorni l'impresa italiana, le sue specialità, le specializzazioni, i radicamenti territoriali, tipologie, mix, strategie commerciali, produttive e organizzative, cioè Paolo Bricco, che ringrazio di essere in studio. Grazie mille, buona giornata a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori. E Cesare Fumagalli, che è collegato con noi, il segretario generale di Confartigianato, perché Confartigianato è stata una di quelle che ha dedicato uno studio in particolare di approfondimento a una delle misure, che a me non piacciono per niente, ve lo dico subito, che è uno dei cardini del maggior gettito dalle imprese, o meglio del maggior drenaggio di liquidità che colpirà le imprese, grazie a quanto scritto nel decreto e quindi anche per tutto il 2018 oltre che il 2017. Cesare Fumagalli di Confartigianato, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Allora Paolo, primo giudizio, ma questo giudizio che ha dato Confindustria, di fatto facendo il nostro mestiere, non quelli che prendono lo stipendio dal giornale di Confindustria, è vero o no secondo te? Ma ritengo che sia vero che che ci sia un aumento del peso fiscale sulle imprese, o meglio sulla finanza di impresa, perché tutti gli ultimi provvedimenti non soltanto portano il famoso corporate tax a livelli inusitati, ma in generale vanno a strozzare la già complicata finanza d'impresa delle strutture industriali italiane. Ad esempio, come giustamente ricordavi tu, non ci sono soltanto stati gli aumenti di imposte su alcuni particolari settori per drenare liquidità ai fini dei conti pubblici, come i giochi, il tabacco, ma c'è stata anche una stretta sull'ACE. Ci sono maggiori... Ricordiamolo, è un incentivo che si era potenziato per spingere le imprese, a cominciare dalle più piccole, a capitalizzarsi di più. Ecco, e poi ci sono maggiori oneri di procedurali anche sull'IVA, e quindi non è soltanto un tema di quanti soldi escono dalle casse delle imprese verso lo Stato a fine anno approvato il bilancio, ma in generale quanta difficoltà ha l'impresa italiana nella sua finanza d'impresa quotidie, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E questo evidentemente c'è. Dall'altra parte va assolutamente notato come l'ultima audizione dei rappresentanti di Confindustria in sede parlamentare e in generale nel mondo della rappresentanza si inizi, secondo me, a esserci una nuova consapevolezza sul fatto che la stagione degli incentivi, la stagione dei bonus, la stagione del denaro, non vorrei dire a pioggia perché sennò il ministro Calenda si arrabbia, sì, dato che ha impacchettato molto bene dentro Industry 4.0 tutti i provvedimenti e le misure a favore della tecnologia e della tecnologizzazione delle aziende, però ecco, quella stagione lì dei soldi dati dallo Stato alle imprese potrebbe anche avere dato ottimi esiti dal punto di vista quantitativo. Vogliamo ricordare gli articoli, ad esempio, scritti in queste ultime settimane da Carmine Fottina sul Sole 24 Ore, che ha ricordato come nei prossimi 8 anni la cifra complessiva, il pacchetto sviluppo, valga 15 miliardi di euro, che non è non sono peanuts, un punto non di è PIL, poco. Però allo stesso tempo, dall'altra parte, si inizi forse a riflettere sul fatto che la pressione fiscale, una riduzione a livello di cuneo, a livello di previdenza, a livello di corporate tax, alla fine potrebbe essere sul medio e lungo periodo una medicina meno panacea e più radicale per provare a cambiare i deficit della struttura industriale italiana, che sono quelle di una grossa difficoltà sull'autofinanziamento, una grossa difficoltà sul salto dimensionale, tutte cose che in qualche maniera non vengono intercettate e curate dai soldi che nelle misure più diverse dallo Stato vanno alle imprese, ma che potrebbero essere meglio curate da una minore riduzione del denaro che dalle imprese va verso lo Stato. Quindi io ritengo che l'intervento della dottoressa Panucci, ma in generale anche molti discorsi che nel mondo della rappresentanza si sentono nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, potrebbero andare verso la direzione di un tentativo di rifocalizzare il tema sul tema fiscale e in qualche maniera rinunciando anche a un rapporto particolare con la mano pubblica. Con la mano pubblica, questo è il problema. Allora, qui ci sono una serie di misure, alcune le abbiamo già ricordate, appunto. C'è un giro di vite sull'ACE, che era la misura di incentivo alla patrimonializzazione, soprattutto delle piccole imprese. C'è un giro di vite, e questo mi dispiace molto, perché l'esperimento è stato fallito, perché l'Agenzia delle Entrate, mi prendo la responsabilità di quello che dico, non è mai piaciuto. Da 2 anni nel nostro ordinamento avevamo, per spingere le imprese a investire più negli intangibles, quindi nei fattori immateriali, quindi significa brevetti, marchi, design depositato, eccetera eccetera, si era tentato di introdurre nel nostro ordinamento una cosa che si chiama patent box, che appunto diventa un veicolo in cui concentrarli e fiscalmente godendo di un abbattimento molto significativo. Questo patent box all'Agenzia delle Entrate non è mai piaciuto, perché l'ha sempre considerato uno strumento troppo facile all'elusione, e infatti in 2 anni, perché in teoria c'è da 2 anni, ne ha concessi pochissimi rispetto ai tanti. Bisognava ovviamente chiederlo, documentarlo, avere un rapporto di interlocuzione con l'agenzia delle entrate. Ne ha chiesti pochissimi, ne ha riconosciuti pochissimi, e adesso si fa un giro di vite. Anche questo secondo me è sbagliato, perché gli intangible, cioè appunto i brevetti, sono un altro traino di cui c'è bisogno di più diffusione. Bisogna metterlo nella testa anche dei piccoli imprenditori che si fa così. C'è una vecchia polemica italiana sul fatto che la produttività italiana è misurata secondo standard nord europei, poco in grado di fotografare il miglioramento di processo e di prodotto anche dei piccoli, senza di cui non riuscirebbero a stare nelle catene di valore aggiunto in cui comunque stanno come fornitori di catene globali del valore internazionale. Ma era una cosa buona, e invece si fa un passo indietro. C'è la mazzata sul settore dei giochi. Qui ovviamente la politica ha buon gioco a dire che è per la ludopatia, però io ricordo a tutti che noi stiamo andando, qualunque cosa voi pensiate del gioco, io non gioco non do soldi né allo Stato né, non lo faccio per convinzione, però noi stiamo andando, grazie a questo inasprimento, a una pressione fiscale complessiva che è distinta per tipo di gioco. Ma se ci fermiamo semplicemente a le due tipologie più diffuse, cioè le slot negli esercizi commerciali, bar e tabaccai, lì si arriverà, la slot machine per intenderci, al 64,3%, e invece le VLT, cioè le videolottere, quelle che stanno nelle grandi catene dei grandi gruppi, nelle sale specializzate, comunque si arriva al 52,5%. Allora il prelievo in Germania è il 22%, in Spagna è il 38%. Detto questo, c'è una misura che a me non piace per niente, e adesso vi spiego di che si tratta, ma poi dopo la pausa facciamo una riflessione aggiuntiva con Cesare Fumagalli. È l'estensione dello split payment. Che cos'è lo split payment? È una maniera, da un paio d'anni, Viscola proponeva da 15 anni, che lo Stato introduce dichiarando che serve per combattere l'elusione in materia di pagamento dell'IVA. Si è iniziato con i fornitori diretti dello Stato, che a quel punto non si vedono corrisposto l'IVA in fattura, e direttamente lo Stato, con la partita di giro ovviamente, lo paga all'amministrazione tributaria. Adesso si estende questa stessa misura non solo a tutte le società pubbliche, ma si estende anche ai maggiori 40 gruppi quotati nel nostro paese, quindi fornitori Fiat, Pirelli, eccetera eccetera. Che cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire che tu non puoi usare l'IVA che ti viene corrisposta per compensare automaticamente i tuoi crediti fiscali, quindi diventa un drenaggio di liquidità, e stiamo parlando di una cifra che nel 2018 è calcolata intorno ai 12-15 miliardi di euro, perché a quel punto la vedi, facendo le procedure ordinarie e non quelle di compensazione, quelle ordinarie le vedi coi tempi con cui lo Stato ti riconoscerà davvero il credito, e quindi intanto tu la liquidità per farlo non ce l'hai. Quindi mi si dirà: ma non paghi tasse in più? Ho capito, ma non c'hai la liquidità che ti consentiva prima di andare avanti. Attenzione, la si estende alle piccole, alle piccolissime, ai professionisti la si estende questa misura. In più si abbassa il tetto per la compensazione automatica, per così dire, senza il certificatore professionista, da 15.000 euro scende a 5.000 euro, quindi altra liquidità che viene drenata. Ricordatevi sempre che mentre Oscar Giannino contribuente, se ha un debito fiscale verso lo Stato iscritto al ruolo, gli paga il 3,5 di interesse. Se gli Oscar Giannino contribuente c'ha invece un credito fiscale e lo Stato non me lo compensa, lo Stato mi paga per i primi 6 mesi di ritardo, non mi paga niente, dopodiché mi paga il 2%. Perché lo Stato mi paga a me il 2% mentre io devo pagargli quasi doppio? Ecco, fotografia della questione. Pausa, traffico, e poi torniamo. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati. Allora, Cesare Fumagalli, questa storia dello split payment estesa a piccoli, piccolissimi, ai fornitori dei 40 gruppi quotati, a tutte le società pubbliche, ai professionisti, voi giustamente avete fatto un approfondimento. Questa roba qua sembra che non interessi a nessuno, ma è una mazzata clamorosa. Ma noi abbiamo ieri alle commissioni bilancio di Camera e Senato rappresentata la nostra totale contrarietà come Rete Impresa Italia a queste misure, che hanno questo aspetto un po' subdolo. È vero, non c'è nessuna imposta in questo momento che viene aumentata, ma il risultato è quello di sicuramente di maggiori costi a carico delle imprese e alle imprese che sono fornitrici della pubblica amministrazione in primo luogo, poi come lei ha ricordato alle imprese anche dei grandi gruppi quotati in borsa, ma con un'estensione che è davvero ad alta ramificazione, per cui quella che è partita nel 2015 come limitata alla sola pubblica, esatto, una parte della pubblica amministrazione, adesso diventa con una quotazione di impatto altissimo, per cui questi fornitori intanto hanno un soggetto al quale forniscono beni e servizi che paga puntualmente in ritardo. Ricordiamoci che il MEF nel frattempo da molto tempo ha smesso di attualizzare, cioè di aggiornare la stima della crescita del debito commerciale, che dopo i soldi ma vi assicuro che stanziati... continua a rimanere, esatto, alto. Ma quindi siamo tornati verso i 70 miliardi, è la Banca d'Italia che ci dice ma più o meno, ecco, siamo tornati lì, ecco. Per cui questo fornitore piccolo, medio, grande come vuole, è un fornitore che viene pagato in ritardo, che si troverà con la manovrina approvata costantemente a credito di IVA, con maggiori costi amministrativi legati agli adempimenti e a eventuali garanzie se decide di presentare istanza di rimborso. Quindi a questi effetti si aggiunge la penalizzazione che deriva al cash flow aziendale e quindi la necessità magari di andare a ricorrere a forme di finanziamento. Si capisce perché diciamo non è un aumento di imposte ma è un forte aggravio di costo a carico delle imprese, che è doppiato dall'altro aspetto che ha già ricordato, e cioè quella del ridurre la possibilità di compensazione dai 15.000 ai 5.000, o meglio, si può ancora, ma occorre aggiungere un altro costo amministrativo che magari farà desistere qualcuno dal ricorrervi. Perché le complicazioni anche qui, oltre al danno, devo dire la beffa, perché entrano in vigore senza aver previsto un periodo transitorio intermedio, per cui chi ha presentato la dichiarazione IVA al febbraio scorso adesso come fa a recuperare, certo, con le nuove regole del 15.000 di prima e i 5.000 e i 5.000 di adesso nella stretta sulle compensazioni. Io non so se lei ha letto. Più deve versare direttamente, non più, cioè la formula per l'F24 diventa quella diretta dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Online o Intratel. Anche qui vuol dire diano un termine dal prossimo primo di giugno, vuol dire non è possibile. Lei lo sa che i decreti legge devono immaginarsi sono in vigore subito. Esatto, sono in vigore subito, mentre le circolari di attuazione poi arrivano dopo mesi. Il decreto legge è vero, ma lo statuto del contribuente dice anche che non possono essere fatte disposizioni che introducono adempimenti immediati. Lo sa per che cui, è la legge più calpestata della storia d'Italia. Lei ha visto, non so se ha visto oggi, cioè, la Repubblica ha tenuto ieri una lunga sessione alla televisione Cataweb del gruppo di Repubblica con il direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi, e di cui oggi c'è una pagina interna di Repubblica che ne espone la sintesi, e c'è una domanda proprio su questo, sullo split payment, e la Orlandi dice ma no, ma le imprese su questo esagerano, cosa, ma sono pochissimi quelli che poi verrebbero toccati. Beh, lei che dice? In relazione tecnica è quotato per 1 miliardo esatto, e 600 milioni, se è pochissimo, per noi non è pochissimo. Vuol dire, basta leggere in relazione tecnica gli effetti che sono prodotti. La realtà è che per rispondere alle necessità dei 3 miliardi e 4 di correzione della manovra si ricavano le risorse dallo split payment e dalla questa riforma delle compensazioni. I due provvedimenti insieme sono quotati per i tre miliardi sono i due pilastri fondamentali. Io ricordo a tutti che le limitazioni, che poi vedremo davvero se poi verranno attuate, cioè quella a carico del Ministero del Tesoro, sono poco più di 500 milioni, quindi sono peanuts da questo punto di vista. Che dici, Paolo? Ma a me fa molta impressione pensare che la struttura industriale di questo paese ormai è ridotta a una bipolarizzazione. Il 20% delle imprese fa l'80% del valore aggiunto e fa l'80% dell'export. Di fronte a questa bipolarizzazione, l'ansia, il mal di testa, il senso di soffocamento che chiunque ci stia ascoltando prova, è lo stessa ansia, lo stesso senso di soffocamento, lo stesso mal di testa che provano gli imprenditori italiani. Il vero rischio è che il 20% che fa l'80% dell'export e l'80% del valore aggiunto si organizzi e in Europa vada a sfruttare le asimmetrie fiscali, perché noi non dobbiamo noi dobbiamo ricordare che ciò che ha fatto FCA con Olanda e con Inghilterra è una struttura fiscale, societaria, di rapporto con il fisco assolutamente legale. E legittima, al di là di quello che uno possa pensare nel merito della cosa. Quindi, voglio dire, il rischio è che con una finanza d'impresa così ossessivamente colpita dalla mano pubblica e dal governo e in generale da tutto ciò che è pubblico in Italia, il rischio è che chi può si organizzi diversamente nella struttura societaria, mentre invece l'80% delle imprese che sono in grave difficoltà nel nostro paese alla fine rischiano veramente e si beccano tutti gli schiaffi invece. Tanto per darvi un numero, non è molto complicato immaginare che, purtroppo Paolo abbia ragione, se andiamo a vedere il report della Banca Mondiale Paying Taxes nel 2016, noi prima dell'abbattimento IRES di quest'anno avevamo ancora sul reddito lordo dell'impresa un carico fiscale del 64,8% per le imprese italiane, in Svizzera il 28,8%, in Austria il 51,2%, quindi passa veramente pochi chilometri da dove stiamo andando in onda a noi. Purtroppo, ecco, ci pensassero i governi. Capisco che tagliare la spesa è più doloroso, ma dare uno schiaffo sugli incentivi, alla capitalizzazione, agli intangible, drenare liquidità come si fa con lo split payment, beh, questo rischia di farci crescere ancora meno di quello 0, a cui siamo così faticosamente con 50 miliardi di euro cresciuti. Grazie allora ai nostri ospiti, a Paolo Bricco naturalmente, a Cesare Fumagalli. Continuate su Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Mina, domani alle 8:20, attenti alle 2.